Salta, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone. Uni. È venerdì. Finalmente venerdì. Grazie a Dio, è venerdì. 5 marzo 2016, Radio F e Piazza Alta, sono le 22.02. Ed Enzo e Marcello sono qui con 60esima voi. Puntata in assoluto. In assoluto, perché questa è la settima della terza serie. Incredibile. Incredibile. Twin 60 Peaks, venerdì. Twin Peaks della Val di Chiana. No, niente. E fra poco, puntata tra l'altro attesissima da tutti, fuorché da me, vorrei dirvelo, ma ve lo dirò dopo. E andremo a capire il perché. A brevissimo, ma già tanti lo sanno. Rimanete con noi, anzi, come dice uno bravo, stay tuned. Buon ascolto dalle F frequenze. Non lo so, non c'era. Siamo già a discutere, ma non importa. È già iniziata la singolar tensione. Questa era Se Telefonando, cantata da Mina, scritta da Maurizio Costanzo, ma in realtà quello che ha voluto fare Simone è un omaggio al maestro Ennio Morricone, che pochi giorni fa ha vinto l'Oscar. Ma pare proprio che il maestro Ennio Morricone aspettasse questa dedica. Perché ci da sta Simone. Ascoltando perché ci sta ascoltando forse o in podcast o sul nostro sulle frequenze 89.2 oppure su www.radiof.it oppure tramite la nostra Apple, sì, la nostra Apple, la nostra applicazione per Apple o Android. Ma possono fare anche un'altra cosa. Possiamo interagire in tanti, quindi possiamo interagire con voi, con voi che ci state ascoltando, che potete anche scrivere sul 392 490 0800 e messaggiarci tramite WhatsApp. E l'argomento della serata sarà interessantissimo. Però sempre interrotti comunque. Attenzione, attenzione! I presidenti dei cantieri del Carnevale, da un'idea di Reggio Condo, un'icona dei nostri tempi. Dopo i quattro dell'Oca Selvaggia, dopo i fantastici quattro, i quattro moschettieri della Carta Pesta, i quattro capipopolo della satira carnevalesca, in un tripudio di cene, balli, mascherate e coriandoli, la faccia pubblica dei quattro popoli, la punta estrema dei quattro cantieri, questa sera a Piazza Alta. Around with a big balloon, and if you try to take it from her, your end will come too soon. She dreams about her big balloon, carrying her higher and higher up to the you're lucky, she might let it go for you and make a wish. First thing she wakes up, pours herself a cup. Before she's out the door, she stops to blow it up. Sometimes she carries it high, sometimes she carries it low. People point at her and say, there she goes. About danger, she don't worry about doom, and she don't give a damn what you think about a pink balloon. She walks around with a pink balloon, and if you try to take it from her, your end will come too soon. Balloon. She walks around with a big balloon. Primo estratto del nuovo album di Black Number Carter. 23. No, secondo Pink... estratto. Vabbè, allora fai Pink Balloon. Primo estratto del nuovo album che uscirà l'8 d'aprile, caro il mio Marcio. E io non sto più nella pelle, guarda. Lo so. Ma finalmente siamo arrivati al motivo per cui ci troviamo qui stasera. Ci sono tanti ospiti stasera e sono tutti molto importanti, perché rappresentano qualcosa di veramente importante nella comunità foianese, ma non solo, nell'arte. Stasera si parla di arte, io la dico sempre che per me è arte incredibile. È artefatto, un po' come me. Allora, parliamo di... Ora te l'hai fatta lunga. Parliamo del Carnevale di Foiano della Chiara. È un argomento che non abbiamo mai trattato quest'anno, ovviamente. No. Ma è importante perché il Carnevale è finito e ha decretato i suoi vincitori. Ecco, e con chi parlarne se non con i protagonisti massimi di questa manifestazione? Con però... i carri... Con i presidenti dei quattro cantieri o i facenti. Funzioni. Attenzione, la musica in sottofondo. La sfida inizia. Alla mia sinistra, il presidente del cantiere Rustici, con cuffia rosa stellata, Giorgio Gervasi. Buonasera Giorgio. Buonasera a tutti. Alla mia destra, con felpa richiamante colori sociali e cuffia rossa, Mauro Zacchei. Buonasera a tutti. E ancora al centro, con braccia conserte, il segno di grande possanza fisica, Massimo Ciccarelli. Buonasera a tutti. Presidente di Azzurri. E ora? Non c'è nessun altro. Il presidente uscente, ma non troppo, con cuffia rossa e felpa color vinaccia, presidente del cantiere Bombolo, Enzo Inoki Ferraro. Buonasera a tutti. Hai sbagliato, dovevi, hai chiamato prima me, poi devi chiamare le Azzurri. Poi poi, giustamente, no, l'ultimo hai chiamato Pompa. Era un ordine totalmente casuale. Era un ordine. Con punti, punti. Ma avendo spezzato la lancia, non facciamo confusione. Allora, cerchiamo di essere seri, perché qui il nostro pubblico radiofonico si attende un resoconto quanto più succinto possibile di quello che è accaduto domenica scorsa. Facciamo una cosa, Marci. No, dovrei parlare di te, perché io fra pochi secondi divento ospite, sì. Capito? Vabbè, ma ora siamo a Morricone ancora, questo è? Questo qui è armonica, da C'era una volta in West. C'era una volta in West, la sfida si fa interessante. Bravo, allora, Simone, stasera ti vedo in tema, bravo. Allora vi dicevo, magari qualcuno non sa di cosa parliamo. Il carnevale di Fiora della Chiana vede quattro cantieri sfilare ogni domenica, e questi lo fanno solo per una maledetta coppa. Questa maledetta coppa, prego. Quasi tutte le domeniche. Quasi tutte, pioggia permettendo, assolutamente, e teloni permettendo, ma qui se entra in una troppo nello specifico. E allora che succede? Che l'ultima domenica di carnevale viene eletto il vincitore, e domenica scorsa è successo che è venuto fuori il verdetto. Una cosa insolita, se non sbaglio, vero Giorgio? Domenica è successa una cosa insolita, perché è stato che hanno vinto Russici, stranamente non succede quasi mai, quasi mai. Funziona così, che stasera era un sacco di tempo. Per quanto? Un anno. Ecco, sono ben 365 giorni. Perché sì, per noi. Infatti, facciamolo due volte, tanto si vince sempre noi anche due volte. Allora, devo dire una cosa ai presidenti degli Azzurri e a Mauro, facente funzione presidente di Nottamboli. Non c'è bisogno che parate al microfono, vi sentiamo lo stesso, quindi potete insultarlo. Ah, ma stanno bavando, sì. Non è che ci vuole tanto. Va bene. Ma perché? Perché c'è questa tensione? Perché è vero che i carri sfilano per 5 domeniche, ma i preparativi durano tutto l'anno. Quindi tutti gli appartenenti, i simpatizzanti dei cantieri, ma anche coloro che materialmente usano le mani, la loro intelligenza, le braccia, per preparare i carri, chiaramente ci mettono tutto il loro cuore e tutto il loro saper fare. E questo fa sì che l'ultima domenica sia particolarmente sentita, perché è il frutto di un anno di lavoro. E tanto siamo nel prologo, chi è che decreta il vincitore? Ma facciamolo dire ai nostri ospiti, lo vuoi dire? Qualche sedicente scultore, qualche sedicente scenografo. Quindi, via dicendo, mi piacciono i nostri ospiti. Ricercati dal comitato del carnevale, vengono, come dire, rintracciati, vengono designati dei soggetti che, almeno in teoria, a quello che ho capito, dovrebbero dare un giudizio su vari argomenti, Il giudizio lo danno, ma in teoria sarebbero degli esperti. Questo ecco, io infatti lascio il dubbio, perché chiaramente non voglio prendere parte. Sì, poi secondo me c'è anche qualche presidente che lavora fuori dal cantiere e poco dentro. Ecco, infatti dicevo, però molto fuori dal cantiere è un lavoro e poco che prende dentro. Un po' 24 ore al giorno. Giorgio, non so se ti senti chiamato in casa per causa. Ora quello di presidente sfogare, è una funzione, no, perché c'è da iniziare a lavorare, che le ho fatti sfogare, perché se no almeno questo dobbiamo inizia dare. Ora allora, cioè, posso rispondere però un secondo. Aspetta un attimo, il titolo del tuo caso, prima di tutto. Ma che ne so, vedi, non lo sa. Carro De Russi, ci è arrivato prima, ce lo aspettavo. Tanto Carro De Russi ci vince, che importanza ha il titolo? Anche questo è importante. Cioè, il dubbio lo sai qual è. Ti lascio 3 secondi la parola. 3 secondi, ma no, 3 sono pochi, 30. Va bene. Allora, il dubbio è questo, dice questo tipo di giuria, ma allora è sempre così la giuria, perché io ho visto che si vince quasi sempre noi, Bombolo arriva sempre l'ultimo. Allora c'è qualche problema grosso, perché allora, o è sempre la giuria che non va bene, oppure probabilmente c'è chi fa carri male. No, ma sicuramente ha ragione Giorgio, sicuramente ha ragione. Vorrei dire tante cose, ma mi trattengo, perché sono anche ospite, quindi li ospito. Il problema è questo. Non in questo momento, sei il presidente di Bravo, puoi allora, dire posso tutto. Dire quello puoi che dire tutto. Il fatto è questo qua. Evidentemente i numeri sono dalla parte dei Rustici, e su questo non possiamo assolutamente dire niente. Qualche cosa da dire su come sono scelte le giurie, e Giorgio lo sa, perché sono 10 anni che chiedo di cambiare le giurie. E un anno ti sono venuto incontro, sei cambiato e sei vinto lo stesso. Non te lo mi ricordo. Sei venuto incontro, ti sono venuto incontro con la giuria popolare. E non era quello che volevo io. non era e non volevo, ho detto per Enzo come amico lo faccio e chi ha vinto il cancelliere De Rustici. Ma non era quella la giuria che volevo io, lo sai benissimo, però era, era un inizio. Fatto sta che io la penso così: dove ai Rustici non interessa, vince chi merita. Infatti la mascherata la vinciamo sempre noi. E poi ci arriviamo. Perché anche questo va detto. E poi ci arriviamo. Per la prima volta nella storia, caro Marcello, la mascherata di Bombolo, la prima volta nella storia del Carnevale, ha vinto con tutti i primi posti, da quando ci sono quattro giorni. È un evento. Come dice Giorgio, quando andiamo a aprire le buste, abbiamo vinto la Coppa Italia. Ma meglio la Coppa Italia che... Allora, in questi primi, diciamo, battibecchi, da cui si può intendere un po' il tono della serata, abbiamo sentito gli estremi, ma nel mezzo ci sono gli azzurri e i nottamboli. Mauro, hai qualcosa anche da dire? Io direi una cosa: secondo me metterei un tema nel carnevale, cioè come fanno in altre manifestazioni. Per dire, quest'anno si parla della primavera. Ecco, misurarsi. Ma allora anche se non la chiami la giuria. Beh, come? No, perché si vince proprio sempre. No, questo... come vinci sempre? Certo, perché vince l'artista più bravo. A quel punto, se tutti devono fare la stessa cosa, almeno potete avere la chance... potresti avere la chance che avete trovato un tema diverso, attuale. Ma se il tema è lo stesso per tutti, ragazzi, non lo fanno più il cane. Ho capito, il tema era attuale. Per dire, è l'attuale. Ecco Mauro, scontatino, ma attuale. Il tema del tuo carro qual era? Il tema del mio carro era sugli emigranti. Bene, proprio a bomba direi. A bomba. Ma secondo me i temi, e poi ora parlerò al Massimo, erano, a parte quello dei Rustici, tutti attuali. Ma certo, è questa la differenza. Sì, è vero, è vero. Perché voi mi dovete dire chi è... Anche il Bombolo era attuale. Lo scemo che un pensa a questi poveri disgraziati che arrivano, che muoiono per l'amor del cielo, qui ora... Non è che voglio fare un discorso come abbiamo fatto fino a 30 secondi fa, oppure che la lotta, il bene e il male, oppure queste donne piccinine maltrattate, eccetera, eccetera. Questo non dico che è scontato, ma dico che sono problemi veri, senza ombra di dubbio, ma ovvi. Chi va a pensare a una cosa del genere? Noi siamo ritornati al 1500, quando Machiavelli ha scritto una cosa di quel tipo e l'abbiamo portata ai giorni nostri e la giuria ha detto eccezionale. Perché il cancelliere De Rustici è un cancelliere eccezionale, che è al di fuori della normalità. Ma infatti che fuori logica si vede che ha dato il primo posto a un tema che non... No. Attuale, che sarebbe sulla perdita dei valori dell'Italia, certo. Compagnia Bella, poi invece di valorizzare altri temi che si diceva attuali, è andata a valorizzare una novella di Machiavelli. Sì. Questo è discutibile la cosa, però... Appunto, perché non è scontato come le vostre, perché qualunque bambino può pensare a questa Italia va male, si dice da sempre, o quasi, oppure... Che problema grosso, che è veramente un problema grosso dei migranti, oppure del problema della violenza sulle donne, è talmente normale che sia in quel modo. Quindi la difficoltà poi sta nel rappresentarlo, se lo rappresenti bene o male. Noi siamo andati fuori da questi schemi, anche perché, non dimentichiamoci, parliamo di carnevale, ragazzi. Non è che parliamo di problemi della terra, cioè noi parliamo di carnevale e molte volte qualche cantiere se ne dimentica. No, questo non è vero, perché anche l'anno scorso ho detto qualche non anno tutti. Scorso il tuo carro era una morte secca, sempre in maniera satirica, era una peste allegra, sempre allegra. Però quest'anno il carro l'anno scorso ha sfilato in un altro carnevale e ha vinto anche lì come al solito, però voleva sfilare anche in un altro carnevale e non ce l'hanno voluto quel carro perché era... Questo me lo dici te? Sì perché io. Era il carnevale delle Orsoline. Però era un carro tetro. Qualche tema lo abbiamo messo. Io la so così. Chiaramente, diciamo, questi corsi e ricorsi storici, queste rimembranze anche degli anni passati, a chi magari non ha ben presente i vecchi, anche le passate edizioni. Che sicuramente sono pochi, chiaramente bisogna un attimino far mente locale su quello che dicono No, ascoltavo Basito. Ma questo vi fa capire come al di là della realizzazione c'è tutto uno studio precedente, certo, che c'è un filo logico, una elaborazione di concetti che poi vengono trasposti sull'opera d'arte, sulla cartapesta. Faremo una riflessione. Bene, intanto dove si è sbagliato. 2 minuti di pausa. Però. Sì, un po' di musica che ci aiuta. Buon ascolto. A Paolo, a Massimo, che anche per lui era il primo anno da presidente. È stato abbastanza, diciamo, scioccante da quel punto di vista. No. Perché raccontiamo, è stato un crescendo. È stato un crescendo, a differenza di altri due che era seconda busta, avevano già giocato, noi si è giocato fino al fondo, si è giocato. Perché faccio solo per descrivere un attimo, ovviamente i quattro presidenti più il presidente del comitato aprono una busta alla volta e già dopo un paio di buste riesce a capire chi è in lizza oppure no. Non tutti gli anni è necessariamente così. Quest'anno era evidente dopo la seconda busta che gli azzurri e i rustici si stavano giocando, se la potevano contendere, e se la sono giocata fino all'ultima busta. Fino all'ultima busta. E quindi un'esperienza per te clamorosa. Sì, io penso che peggio di così non potevamo. Comunque, no, te lo dico, peggio di così. Ah, beh, no, andare. Nel senso, a livello emotivo è stato grosso. Poi a parte l'emozione dell'ultima domenica, il fatto di essere prima volta il presidente, la camminata verso il paese, vedere le buste sopra il banco, insomma, è una serie di sensazioni che non è facile da descrivere. Poi dopo c'è stato questo epilogo che è l'ultima busta. Ecco, Giorgio, te quanti anni è che fai presidente? Quanti anni è il sono? Primo anno. Della terza decade. Ma mi sembra la generazioni. Mi sembra di aver sentito Giorgio prima che quando hai chiesto che emozione si prova a essere lì, lui ha tirato fuori uno sbadiglia, è quasi annoiato, vero Giorgio? Quanti anni sono? Sì, è certo, sapevo già tutto. Scusa, io infatti volevo arrivare lì, no? Quanti sono? Veramente, allora, veramente lo dice 16 anni, 17, 15? No, dunque, da ufficialmente dal 2001. Quindi sedicesimo. Anche se nel 2000 già facevo il presidente, pur non essendo registrato come presidente ancora il mio babbo, ma ci sono stato io, insomma, okay. Diciamo così. Però non risulto come presidente negli annali, insomma, ecco. Negli annali dal 2001. Ti era mai capitato di arrivare all'ultima busta prima di questa domenica? Che sì, un'altra volta sì. Ecco. Non mi ricordo con che cantiere, ma un'altra volta sicuramente. Anch'io confermo quello che diceva prima Paolo, della tua tranquillità. Allora, devo dire, è dei rustici, Giorgio, questo per concedetemelo. E quindi, come tale, non posso spendere parole buone, no? Chiaro, nel mio ruolo di presidente di Bogo, pure in termini. Però c'è da dire questo, che io negli anni, per me era l'undicesimo anno ad aprire le buste, una cosa l'ho sempre detta anche nel mio cantiere. La signorilità che ha Giorgio in quei frangenti l'ho sempre visto congratularsi per primo nei rari casi in cui non ha vinto, e quindi devo dire che da questo punto e la sua calma è sempre stata totale, sempre. Però domenica realmente era troppo calmo, troppo. Per essere vero, perché eri così calmo? Ma quante volte ve lo devo dire? Ragazzi, è dal primo minuto che ve lo dico. Perché allora quella che ora in Sud America, che era anche discreta, ve lo ricordate? No, quella è quella la scultrice. Quella è la scultrice. Quella è la scultrice. Sbagliato. Quella pittrice vegana. Allora, la vegana, quella peggio no, ma quella meglio, ci ho avuto una storia io. ovviamente. Poi attraverso lei ho conosciuto tutti gli altri. E perché si conoscevano. E allora dice, a me mi hanno detto di venire al carnevale di Foiano. Chi posso portare? Te porta chi ti pare, basta che ultimo sia bombo. Beh, questo poi avete, fai come vuoi. Avete ingaggiato un gruppo vacanze. Sì. Ma intanto, scusa, se viene una giuria normale, chi vince? L'ultimo. Viene una giuria di questo tipo, vince Rustici, allora tanto vince per vincere. Viene. Almeno questo non costa niente. No? Ecco, ma posso fare una domanda da esterno? Ma vorrei sapere, i cantieristi, sì. Dopo il verdetto, no? Vi ritrovate in cantiere? Oppure sì, ognuno oppure si disperde, ognuno ha la propria location. No, ma ci ritroviamo. Vorrei chiedere a Giorgio come è stato vissuto il dopo verdetto in cantiere. E la stessa domanda la vorrei fare agli altri che non hanno vinto. Con una scena normale come facciamo a base di dopo, caviale, champagne, se hai ragione. Alla Julienne. Sì, ma da loro si mangia bene, No, ma mica, ma noi si fa mica anche al chiè. No, noi si fa no, sì, ma con poco. Anche noi si fa al ristorante, ma ancora fumo l'aria. Ecco, anche da noi. No, allora, ora se volete una risposta seria, è stata, a parte chi cantava ovviamente per un altro cantiere, questo è inutile che dica chi è il cantiere, cioè non si può immaginare. Chi lo sa? Addirittura mi hanno detto che hanno provato anche a chiamarlo, ma c'aveva il telefono staccato. È vero Enzo? No, io ce l'ho sempre avuto attaccato. Allora si vede che non ricevi. Hanno sbagliato numero probabilmente. Mi hanno detto sei chiamato. No, a meno non fai cori. Ma forse però, in quei momenti ora, era a parte i ragazzi, insomma, più giovani che lo possono anche fare. Per gli altri è stata un pochino più spenta la cosa, a parte per l'abitudine alla vittoria, e quindi questo è anche normale, ma anche perché non avendo le relazioni in mano non c'era da commentare, perché di solito si passa a questo a tutti nel tavolo praticamente le relazioni, si fanno più fotocopie, quello allora dopo commenta, hai visto che ha scritto il pittore, hai visto che ha scritto lo scultore, che invece non avendoceli solo il punteggio avevamo, e allora è stata una cosa un pochino più intima e ristretta. Massimo? No, da noi uguale, noi si è fatto cena e la relazione è mancata. Sì, dal punto di vista. Ha tolto la discussione, la polemica e tutto quel che ne consegue. Meglio, perché almeno non vi siete accorti che uno va messo terzo invece che secondo. Conta la grata. Non trema. Sì, no, ma dico, ma l'ultima busta non fatichi in quel modo. Se guardi chi ci ha messo terzi invece che secondi, no, no. È già parecchio che va messo primo. Ma non patini, no. Lo facevo per te, Massimo, che non pativi all'ultima busta. Sì, sì. Ma è Mauro... Era per te come prima volta, no? Mauro invece? Anche noi niente, siamo ritornati a cantiere, ma non c'è stato questo. Cioè, tranquilli. Io ho visti molto tranquilli con la musica accesa. Sì, tra sì, l'altro. Siamo entrati giù col carretto, la musica. E poi niente, anche lì per dire non c'erano queste relazioni, c'era solo questo punteggio, non si poteva valutare al momento dove il pittore, lo scultore, dove aveva dato il punteggio, dove c'erano. Certo, i motivi. Che non andavano bene, insomma. Quindi da veri protagonisti avete lasciato la piazza e siete sì, sì, tranquilli, siamo tutti. Ma anche perché, se mi permettete, devo ricordare che i nottamboli sono una costola dei Lustici. Beh, ma di più, forse è il sangue blu, scusami, quella signorina. Forse anche perché se ne veniva da una serata, il sabato sera, che si era fatto una cena di pesce alla grande, e pensa, si è scolato 216 litri di vino bianco. Quindi diciamo quindi, che da 10 anni, 54, effettivamente fa. Può attutire un po'. Perché c'era sempre presa dalla sera prima. Ma erano consapevoli che erano consapevoli che con quel carro non potevano vincere. Però, a differenza di qualche altro cantiere che pensava chissà cosa invece. Ora io ma invece Giorgio, invece, ma almeno me lo chiedi che si è fatto noi, scusa, ma cioè io il carro ultimo classificato come ha percepito, bravo. Come ha assorbito? Allora, ci siamo ritrovati in cantiere, sempre sempre pochi, quei 170, 180 quando siamo pochi, purtroppo è così, e abbiamo fatto una grandissima festa. Abbiamo fatto una grandissima festa alle ragazze della mascherata perché stanno facendo ogni anno un capolavoro, ogni anno un capolavoro, e ti posso dire che ci sono altri cantieri che stanno cercando in tutti i modi di evitare questa cosa, ma non ci riescono, lì siamo nettamente superiori a tutti, quindi io mi sentivo in dovere di dover ringraziare queste ragazze che hanno fatto questo musical vero e proprio. E poi dopodiché abbiamo parlato anche un po' dei carri, però anche a noi ci sono mancate le relazioni, per cui non abbiamo capito bene come abbiamo fatto arrivare i quarti in scultura oppure i terzi in pittura. Chiedi la Giorgio. Ma poi ce lo siamo spiegati. Mauro. Io volevo dire, perché voi vi dedicate molto ultimamente alla mascherata e poco al carro, secondo me. No, carino, noi ci si dedica molto al carro e poco alla mascherata. Sì, però non è che cambia tanto. No, non cambia niente, perché mi è arrivata l'ultima mascherata. No, in realtà noi non ci dedichiamo. Lì c'è una parte di cantiere che fa la mascherata, perché non è che toglie energie al carro. Sono due cose separate. Perché siamo tanti. No, per quello lì. E noi si lavora tanto nel carro e i risultati non ci sono. No, ma anche ma noi si lavora tanto. Ma guarda che si lavora tanto. Vorrebbe intervenire anche Giorgio su questa argomento. Fatemi dire due parole. Vorrei aggiungere una cosa. I nostri anni bui, per i Lustici ovviamente, sono stati 3 anni senza vittorie. Quei 3 anni senza vittorie, il cantiere Lustici ha vinto per 3 anni la mascherata. Bravi. E io, negli anni bui, ho detto, dico, prendiamola così, si è vinto la Coppa Italia, no? Invece che il campionato. Ma ovviamente, cioè non è che ero tanto contento. Ora, capisco, Bombolo, che dopo quanti anni, 8, 9... Ma bisogna 12, 13... Non se lo ricordano neanche più, cioè, che si attacchino a questo. Noi abbiamo anche smesso io ti ricordo che pensare alla mascherata, perché dici, ragazzi, quanti se ne avessi? Ci sono servito da 12... Non è così. Non è così, perché nel documento... Ti la lavastoviglie. Facciamo i piatti da per i piatti ti ci vuole la lavastoviglie. Hai notato una cosa? Da quando vince Bombolo fanno il quadrettino e non serve. Perché non hanno la lavastoviglie. Quando vincevamo noi c'era il piatto d'argento. Sì. E noi infatti quando facciamo le serate di gala mangiamo lì. Sì, bene, puoi immaginare quanto ne abbiamo anche della mascherata. Sì, perché Bombolo ancora non ha la lavastoviglie. E quindi infatti, è quadrettini. Ancora hanno il sapone sole. Ascoltate. Ma infatti noi un anno, quando si fece la festa in Foiante, si vinse, noi nottamboli, nel carretto, per la vittoria, ci si mise una lavastoviglie perché la... che sapevi che mancava bombolo. No, la mascherata pensavo. Era la vostra, quindi tu piazzo un'altra volta. Pensavo che era per bombolo. Allora facciamo così, siccome vorrei parlare anche di un'altra cosa, ma siamo solo a 12 minuti di intervento, normalmente ne facciamo 3 di interventi in 12 minuti, ma va bene così, ma è normale, naturale che sia così. È tutto da sera. Certo. Facciamo un po' di musica, Marcello, se sei d'accordo. Sì, a questo punto perché anche no? Per forza. Perché no? Simone, e poi dopo parliamo della piazza. Della piazza, eh? Vai. Amici. Io sono sicuro che tu vuoi fare una domanda intelligente. Sì, infatti Marcello. Voi, tu Enzo, Giorgio, Massimo, siete delle persone, diciamo, favorite, elette, e perché siete nella stanza praticamente dei bottoni o delle buste. C'è però un grande popolo, un grande mondo che aspetta titubante e ansioso di sapere in piazza quello che sarà il verdetto. E a questo proposito io vorrei chiedere a Mauro, che è cantierista e quindi non ha accesso alle sacre buste, che cosa si prova, almeno che cosa hai provato quest'anno nell'attesa del verdetto dalla piazza. Vorrei dire che l'ultimo verdetto di quest'anno, il verdetto di quest'anno, in piazza pioveva. E quindi ma pioveva. Che cosa aspettavi? Che smettessi tutti gli ombrelli, hai visto, no? e c'avevo un ombrello vicino ad una ragazza e mi corciolava sulla spalla, mi entrava dal taschino l'acqua, ecco, mi scendeva giù nella tasca dei pantaloni bucata, bene, quindi ti arrivava, mi andava dentro i pantaloni. Forse fortuna che avevo le Geox, le Geox respirano, sono bucate sotto, bene, no? Usciva l'acqua, scaricavi a terra un tombino, scaricavi comunque terra. Ritornando al carnevale, quando siamo lì, certo che, cioè, guardi, ti guardi intorno, cerchi, se vedi i movimenti, poi che c'entra? Quando noi siamo sotto la torre del Cerini lì, ti viene da guardare sempre su in vetta quella torre, che fanno questi dei rustici, perché quello poi è un punto debole, è un punto debole, sì. Poi con l'acqua che veniva giù, noi tutti con l'ombrello, quelli che erano là su in quella torre tutti senza ombrello sotto l'acqua, non gliene fregava niente, insomma. Già da lì, capito, c'avevano qualcosa lì a fare all'indiera che ora chissà la buttano giù, la buttano giù. Quindi diciamo che da lì dopo... hai intuito che se prendevano tutta quell'acqua. Ecco, perché prendevano tutta quell'acqua e noi tutti con l'ombrelli lì, insomma, capito. Sono segnali. E poi sono segnali, sì. E poi ma... quando il verdetto è stato detto, si è srotolato questo striscione che non gli si srotolava. È un motivo. E tutti, capito? Però dopo si vede, butta giusto striscione. E sì, perché i rustici per consuetudine preparano uno striscione. Tanto se non vincono quest'anno lo usano l'anno dopo, quindi non è che gli va male. Sono striscioni fatti bene, ecco, ma bene, io, ci vuole da lavorarci da tempo. Tra l'altro, io penso che quest'anno i rustici tra striscioni e teloni hanno speso un sacco di soldi. Io penso. Ce lo possiamo solo per quello. Solo per quello. Solo per i teloni. Teloni navali. Abbiamo anche la gente in fila per comprare il carro. Ecco, di ecco. Infatti da me non sono più in fila perché noi l'abbiamo già venduto. Io te lo volevo dire. Da noi. Ecco. Loro vendono la legna. Per commissione, prima ancora di farlo. Ci hanno da vendere la legna. Adesso, sì, mi sa. Adesso lo dico pubblicamente. Non si siete per razza. Me l'ha chiesto un giurato il carro. Io ve lo giuro. Si è talmente affezionato. Io ora non posso dire altro, ve lo dirò separatamente. Io ve lo dico. Perché quell'autoreggente di Cappuccetto Rosso l'hanno fatto. Tra l'altro, citare. Se vogliamo parlare di, se vogliamo parlare di questo, Giorgio, visto che l'hai scritta te le relazioni, intanto non sono autoreggenti, ma sono delle normali mutande, culotte da Cappuccetto Rosso. Tra l'altro, noi ci chiedevamo in cantiere, fra le mille domande che siamo fatti quest'anno, com'è possibile che dal terrazzino abbiano visto le mutande di Cappuccetto Rosso, che se non gli sei sotto è impossibile, perché probabilmente Giorgio passando sotto l'ha vista e ha scritto. Bravo, bravo, no, che ho scritto qui, volevo dire il telefonino, no, se gli mandava le foto gli mandava va bene, dunque, ma non siamo arrivati alla fine del carnevale, caro il mio Marci, perché c'è ancora un atto. Intanto oggi pomeriggio loro, a differenza di delle altre volte, hanno festeggiato i rustici di venerdì anziché di sabato, giusto Giorgio? Verissimo. Come mai? Perché domani tutto il cantiere parte per un altro tipo di carnevale, quello di Viareggio. Andate a insegnare qua. Sì, qualcosa. Sì, andiamo a insegnare anche a loro, perché siamo arrivati a questo livello. Certo, certo. Ma poi ci saranno le scene sociali. Se volete ricordarci le scene sociali, che sono l'ultimo atto prima poi del carnevale estivo. Apriamo solo noi, data, da quello che ho capito, apriamo noi il 12, sabato prossimo, non domani, ovviamente, Villa Magi, ore 20:30, aperta a tutti, per sia iscritti ma anche simpatizzati. Ok, e voi andrete? Noi andremo. No, dicevo alla cena. No, no, questo ci vuole. Cioè, puoi venire, no, perché, puoi venire perché è la settimana prima. No, sei invitato. Ci tengo, ma guarda. Sei invitato. Ascolta, no, niente, non si va a 19, se lui viene quella dopo. Ah, ma se lui viene la nostra, dici, allora, bene, lui intanto dice, vieni te, poi vediamo. Allora, sera di poi. Mauro, voi in che data vi ritroverete? No, noi azzurri si va al 19. Tutti, cioè, okay. Chi vince la fa, poi quegli altri tre tutti. Tutti e tre. Noi dell'Ottambuli si va da Forcillo il 19. Che tutti gli ottambulisti invitati. Eh? Tutti gli ottambulisti invitati. Sì. si possono prenotare, tanto su Facebook trovano le locandine. E Bombolo invece fa la cena del pianto dove? Noi non facciamo cene, noi andiamo a fare chiamato i vigili del fuoco domenica, dice, perché si era allagato il cantiere, pensavano a una rottura dei tubi, invece dice era tutte le lacrime dei bombolisti che aveva alzato il livello dell'acqua a metà cantiere. Andava bene a loro, sono saliti sul balcone in ottavo. Erano tutti al muro del pianto, sì, da parte nostra, insomma. Ecco, ma a questo noi facciamo il 19. Sì, diciamo in queste cene, no, per chi vorrà partecipare, si può prenotare, eccetera. Ma già ponete le basi per il prossimo anno, per il prossimo carro? In quella occasione lì? Sì. O ma è solo dedicata ai festeggiamenti? I rustici invitano la giuria dell'anno dopo, così prendono confidenza. Sì, sì. No, gli facciamo vedere già il progetto. Sì. Così se c'è qualcosa che non va, dici no, ma questo è cambiato. No, se no poi, trovargli la scusa. E poi, Giorgio, da quello che hai detto prima, potrebbe essere anche un'idea, perché se andate indietro nella storia e riproponete temi e li attualizzate, potete effettivamente già prima proporre dei temi. Se, come certo, hanno fatto quest'anno gli altri cantieri, stanno più sull'attualità, non lo potrebbero fare. Questo è vero, hai ragione, ma tanto che gli altri che fanno. È uguale. Non c'è tripa per il gatto. Non c'è tripa per il gatto. Vabbè, con queste parole... Con queste parole di speranza per i prossimi anni... Andiamo col prossimo brano ora volevo dire una cosa seria. Ma a me mi fai paura più che una cosa seria. Ma se la reggeremo. No, sentiamo. Una cosa seria che non abbiamo affrontato. Dobbiamo ricordare che è finito quest'anno il triennio dell'associazione Carnevale, quindi della dirigenza dell'associazione Carnevale, sì. Quindi c'è da prendere in mano il tutto e cercare di rifare o confermare o meno, quello lo vedremo, insomma, la nuova gestione dell'associazione Carnevale. Certo. Questa è una cosa molto importante. E che tra l'altro ha lavorato anche molto bene. Ma questo dipende da che punto di vista. Sì, beh, dal punto di vista delle gare no. È bravo. Delle bravo, gare no, bravo, perché bravo. Ci sono stati problemi, sì, importanti. Per il lancio delle palle e dei coniugi. No, ma ha fatto anche altre cose importanti, siamo qui a perorare cause. No, ora non voglio fare il polemico. No, parlo della manifestazione. Molte novità, è vero. Andiamo su a Cesare quel che dice. Su altre cose c'è da rivedere. In due parole, diciamo che gli interessavano molto meno i carri delle altre cose del collaterale, questo lo penso. Questo non ci mancherebbe altro. Posso aggiungere una cosa? Cioè, quest'anno è stato fatto un corso per il viale. Che è stato Spero che il prossimo anno si rifaccia per il viale, insomma. Che è stato un evento. La gente quel giorno lì... Nessun dubbio da parte nostra, sperando di trovare una giornata come quella, perché certo, se fosse freddo... o piovizia, non escludendo, ci verrebbero anche loro per il viale. Sì, non escludendo. Sì, ma ora stanno pensando di comprare un telone per coprire tutto il viale. I cannicci, mi piace di più. Più romantico, lo copriamo con i cannicci. Per il sole, cannicci. Ok, ma andiamo anche perché sennò non ce la facciamo nemmeno salutarci. Va bene, scusa, F frequenza. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Oggi avrebbe compiuto 73 anni e questo è 4 marzo 1943. Vogliamo dire il nome? Un caro ricordo a Lucio Dalla. Lucio Dalla, che è scomparso qualche anno fa, sempre a marzo, e questa Simone ha avuto questa delicatezza. Bravo. Sono le 22:57. Sì, abbiamo ascoltato tre brani in meno di quelli che avremmo dovuto abbiamo ascoltare. Fatto un po' sfogare i nostri ospiti. Ma no, ci siamo detti a parlare sempre. Sì. Ci vuole l'acqua, Giorgio, lo senti? Se si capa. Effettivamente, Giorgio, il tuo problema lo sai qual è? Che no, c'ha il telo. C'ha il telo, come fa bene? Hai una statistica che è difficilmente contestabile, quindi... No, per ora, per allora, ora. Ma per chi sei? Ma di chi sei? Sai che il mio sentimento è per te, però... 2016, 9 vittorie. Fai conti. No, no, ma io i conti lo gioco. Fai il rapporto. Che momenti tristi. Però c'è un però. Siccome i presidenti del cantiere azzurri e il presidente del cantiere nottamboli sono dei, mi sembra aver capito, dei neoeletti, ci vuole anche ricambio. Certo, ci vuole tempo. No, no, lui voleva dire che ci vuole ricambio. Allora vi dico un aneddoto. Te lo dico, è vero che presidente... Fra 2 anni, quando ho vinto 4 volte a fila, smetti. Non mi basta più. Ce ne fa 4. Abbiamo già vinto 2 volte 3 a fila. Sì, ora ne voglio fare 4. Allora, volevo dire questo. L'altra sera, in una riunione fra presidenti, ci si parlava, te da quanti anni sei eletto, fra ogni quanti anni vieni rieletto, ogni 3, ogni 1, allora Massimo io sto eletto l'anno scorso, Paolo uguale, io sono a fine mandato, e te Giorgio è un regno, è una dinastia, la prossima, ancora finché regna lui. No, io ho detto la verità, ho detto di Cicredi, non me lo ricordo. Vero, perché non fanno elezioni, no, ma pare che sia stato, se Massimo, chi è stato? No. Che mi ha detto, no, quest'anno sei stato, cioè, si è fatto insieme, dice, quindi è il primo anno, dico, guarda, ti giuro, non me lo ricordo. Ma te lo dico, è pro forma. No, ma pare che il primo documento risalga alla stella di Rosetta, quando è stato eletto. Quando è stato votato il carnevale. Loro c'erano. Ragazzi. Allora, buoni propositi, non so, volete fare dei buoni propositi per il prossimo anno? Sì, guarda, voglio sentire proprio i buoni propositi. Cioè, Giorgio poi in sostanza l'ha fatto, continuare sulla striscia positiva. No, 2 anni a fila devo vincere. Ancora 2 anni a fila? Altri 2. Poi basta, mi ritiro. Massimo, invece... No, io ora volevo intanto salutare il capocantiere. Certo. Che ha la moglie... Che in queste ore... In queste ore stanno aspettando che arrivi la nascita. La nascita. quindi facciamo gli auguri. Sì, a questi gli auguri ci associamo anche noi agli auguri. Luca, sì, tanti auguri a Luca Volantini e Francesca Galano che stanno aspettando Lisa. Da parte di tutti noi. E faremo come di tutto. Rustichella, aspetta. No. Azzurra. Mi sembra che gli mettesse il nome Rustichella. No, azzurra. Quando lo ritrovi te lo dice lui come si chiama. E poi niente, faremo di tutto per le mappe, due punti e andare a vedere se ci riesce, certo, a palla. Certo. Mauro, non noi faremo di tutto per limare quell'altro punti che manca. Bombolo quanto c'è tanto. Però il bombolo non è che c'è tanto, eh. No, basta, non mi piace così perché non si può sparare sull'ambulanza. Croce rossa. No, la croce rossa. No, la croce rossa no. Ma noi, cioè, quindi propositi di arrivare primi l'anno prossimo. No, ora primi. Anche secondi. Non sarà facile. No, che non sia facile. Siamo tutti d'accordo. Loro non sarà facile, ecco. Certo. Però ci proveremo. Anche io in questa occasione saluto tutti i nottambuli, tutti. E simpatizzanti. Bravo, bravo. Enzo, invece il cantiere Bombolo. Il cantiere Bombolo è stracontento di quello che ha fatto quest'anno. Certo, ha vinto la mascherata. Sia il carro fatto che la mascherata fatta, che le scene fatte da Bombolo. Bene. Ci si diverte. Bene. Un mondo, ok, da noi di più, perché qua, non si lavora, non si lavora soltanto nel cantiere, no. Si vive e ci si qualche diverte. Evento si fa bene, sì. Noi di più, noi ci si difende, sì. Ok, quindi capisci. Il messaggio è: chi vuol perdere venga da Bombolo, ma mangia la Nutella. La Nutella si è smessa di mangiare, siamo passati alla rum perché siamo cresciuti tutti. Però ci si diverte. Ben davvero tu. No, ma il dolce era bello. Dai, allora, il nostro scopo è questo: divertirsi fino alla domenica pomeriggio alle 6, perché dopo non si sa. Ma dopo festeggiano le anzi, lo sapete. Bene, diamo appuntamento a venerdì prossimo con Piazza Alta. Ringraziamo il nostro corso al prossimo anno con i corsi di carnevale. Chi si vuole anche cimentare, chi vuole entrare a far parte del cantiere se non già lo è, può far riferimento a voi. E a bussare ai cantieri, noi è abbiamo. Molto semplice, sì. Diciamo. Quindi un saluto a tutti. Non dai rustici, non dai rustici. Ecco, no, perché sono anche tanti. Stanno noi a lavori dentro. Voglio fare un saluto anche a Lorenzo che ha seguito in assoluto silenzio questa trasmissione. Che è stato Lori, che è dei nottamboli, ma simpatizzante dei rustici. No! No, se sentito no, questo è mio figliolo. Se sentito no. Bene, grazie davvero ancora a tutti voi. Ringraziamento anche a Simone che per Buoneone. La selezione Buoneone. Musicale Buoneone. E per il nostro cameraman di questa sera, Paolo. Quindi la sigla non la faccio. Assolutamente sì. No. Assolutamente sì. Se lo dici prima. Sì, ma magari alle volte grazie a tutti. Buona serata a tutti e forza azzurri. Buona serata a tutti e forza Nottoli. Ciao, forza Bombolo. E buon ascolto dalle F Frequenze. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica Simone. Alle riprese video Paolo. Paolo. Un saluto ai presidenti. Enti. A venerdì prossimo.